un ritorno, ma è un bel ritorno, allegro e anche importante, perché questa fattoria che io ho frequentato poi in questi anni è cresciuta bene nel pilastro, nel quartiere, si mangia bene, lo sapete, i trionfi gastronomici, questo punto d'incontro, che poi intorno al cibo c'è molto altro, c'è di più, anche il cibo è importante, per l'amor del cielo. I prodotti sapete che sono prodotti importanti anche questi, perché sono frutto, diciamo, di questo lavoro nelle terre confiscate alla camorra, quindi, come dire, un cibo etico e un cibo genuino, ma c'è dell'altro intorno a questa vicenda, in un modo di stare insieme. Anche questa idea molto bella che hanno avuto lì alla fattoria di Masaniello, di assumere, diciamo, e di dare voce a chi voce non ha, a chi sta nelle case in queste condizioni, diciamo, di disabilità, di handicap, e trovano luogo, lavoro e identità. E sono due aspetti molto importanti. E poi Bologna è straordinaria da questo punto di vista. Anche questa idea iniziale della pizza sospesa è un passaparola, per cui poi abbiamo inaugurato il panino sospeso, poi mi dicono che in alcuni ristoranti c'è anche questa idea, quindi è un'idea di solidarietà, di contare sulle proprie forze senza, come dire, incidere su bilanci pubblici, eccetera. E Bologna da questo punto di vista è una grande città, è un grande cuore, e quindi sono veramente felice ogni volta di tornare a Bologna, di tornare alla fattoria Masaniello. La fattoria Masaniello è un circuito, diciamo così, virtuoso, che ha innescato altre sinergie. Ma con te vorrei riflettere anche su uno spunto, insomma, che mi viene pensando, sì, a quello che hai detto e all'esperienza della fattoria di Masaniello, perché spesso, come dire, le cose che innescano un senso di comunità, le questioni etiche, vengono considerate altro rispetto agli affari. Uno dice: ma che c'entrano gli affari con l'etica? E invece questo è una dimostrazione concreta. È una dimostrazione concreta. Poi, sai, andiamo a scavare ancora di più, vuol dire garanzia di contratti, diritti per i lavoratori, per chi ci lavora. C'è un impegno etico, diciamo, è quella Italia che noi vorremmo. Questo può essere un piccolo modello, i prezzi però sono prezzi popolari, il cibo è di qualità, c'è il guadagno per chi ci lavora, c'è questa idea, sai, è chiaro che pensare a uno sviluppo del sud, tutto giocato, diciamo, sui beni sequestrati alle mafie, tra un po' li avete anche voi in Emilia Romagna i beni sequestrati, con i processi che si sono già conclusi, con l'infiltrazione delle mafie che c'è al nord, diciamo, però è una garanzia questa, è un modello, perché comportarsi bene vuol dire anche lavoro, questo voglio dire, perché noi siamo abituati a vedere queste ricchezze di questi malavitosi che però non portano sviluppo. Invece una piccola realtà, un piccolo modello come appunto la fattoria Masaniello, quello indica una strada da percorrere per altre realtà anche. Con questo governo, questa maggioranza, questo clima politico, come sta il tema della lotta alla mafia e la cultura antimafia? Beh, guarda, io sono stato promotore 4 giorni fa di una petizione su change.org, Disarmiamo Napoli, che è il punto, la cronaca, i fatti di questi giorni, di queste settimane, ci dicono che la questione mafia è una questione prioritaria, eppure non c'è nell'agenda politica del paese. Hanno fatto l'ennesima retata a Trapani, l'ennesimo politico finito dentro per voto di scambio. L'altra settimana in Veneto ci sono stati 50 arresti per il clan dei Casalesi che si è infiltrato nel Veneto, addirittura un sindaco, il sindaco di Ereclea, provincia di Venezia, arrestato, anche lui per voto di scambio. Insomma, abbiamo questi segnali dai territori che sono segnali estremamente preoccupanti. Eppure il nostro ministro degli interni batte su altri tasti, non su quelli veri e importanti per il nostro paese, per cui l'emergenza che non c'è immigrazione. Prima del voto aveva detto che avrebbe rispedito a casa i 530.000 irregolari, praticamente stanno 18 rimpatri rispetto ai 17 del governo precedente. Temi che stanno nella pancia, indotti nella pancia del paese, quando le emergenze di un ministro dell'interno dovrebbero essere altre.